5 e. Ascolta e trasforma. L'esercizio è facile. Gli esercizi sono facili. L'albergo è nuovo. Gli alberghi sono nuovi. L'autobus è lento. Gli autobus sono lenti. L'aereo è veloce. Gli aerei sono veloci. L'esempio è chiaro. Gli esempi sono chiari. L'indirizzo è sbagliato. Gli indirizzi sono sbagliati. L'ospedale è lontano. Gli ospedali sono lontani. L'ufficio è vicino. Gli uffici sono vicini.